Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Prova in mezzo a 4, Lemina, c'era ancora lui fra i piedi, Lemina, poi Higuain! Eccolo! Eccolo! L'attaccante Higuain in una partita fin qui piuttosto inespressa, al primo pallone utile, o meglio al secondo pallone utile, con pochi centimetri di spazio a disposizione, trova il destro ed è l'1-0 Juve. Sì, tutto attaccante sempre vuole fare gol, non tutte le partite si può, è importante quando non si può fare gol aiutare la squadra in altri aspetti, no? Stava tranquillo, per fortuna è arrivato, quindi felice. Palla in mezzo Rugani, 2-0 Juve, ancora una volta Rugani, terzo gol stagionale. Insomma, sta diventando un simpatico vizio per lui. All'inizio avevamo pochi uomini dentro il campo e giocavamo troppo sul perimetro, abbastanza lenti, anche se abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio, abbiamo avuto una circolazione migliore, loro sono anche, dopo lo svantaggio, sono un pochino più aperti, sono calati fisicamente, quindi per noi è diventato, direi, tutto più facile. Era importante vincere per finire al primo posto, soprattutto quest'anno non avevamo mai vinto in casa, in Champions, quindi è un bel risultato, il primo obiettivo della stagione. Vabbè, questa è cronaca, ma è ovvio che oggi ciò che interessa è altro, ed è per questo che ho invitato colui che è il mio migliore amico qui dentro, Giuseppe Cruciani. Ciao ragazzi. Il domatore di leoni. Ciao. Domatore, allora, un po' troppo, L'aizzatore di leoni. Adesso vediamo. Allora, togliti tutti i dubbi giuridici e legali che vuoi con Mattia Grassani. Buongiorno avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. È chiaro che il caso è quello di Strootman, è chiaro che... Allora, ieri un ascoltatore mi ha invitato ad inginocchiarmi ogni volta che parlo della Roma. Io mi inginocchio solo davanti a Gesù Cristo, ogni non mi tanto, inginocchio no, certamente, non ogni tanto non sempre, ovviamente non mi inginocchio davanti all'ipotesi di un complottone. L'ascoltatore si è incazzato perché io ho parlato di complottone. È un termine che mi sembra consono in questo momento. Cosa vuoi chiedere a Mattia Grassani? Ma la prima cosa che viene in mente è questa: al di là del tifo, e qui non stiamo parlando di tifo, la squalifica di Strootman appare bizzarra, soprattutto per il fatto che crea un precedente giurisprudenziale. No, che la motivazione è stato già ammonito. La motivazione, cioè due giornate perché ha provocato con la sua simulazione, così c'è scritto, mi sì, sembra, no? L'espulsione di Cataldi mi sembra non so se l'avvocato Grassani è parte in causa in questo caso. No, nessuno è parte in causa, dunque io cerco di svestirmi dai panni, come sai, Carlo, di tifoso della Lazio, di cui perfetto, non me ne frega assolutamente perfetto, nulla. Perfetto. Allora, a me sembra bizzarra, comunque, vedendola senza paraocchi, avvocato. Sì, diciamo che è un precedente pericoloso, perché la decisione del giudice sportivo amplia l'utilizzabilità della prova televisiva, e soprattutto nella stessa decisione del giudice sportivo si dà atto, da un lato, che il giocatore della Lazio comunque strottona Strootman, ma che questo strottonamento non sarebbe in rapporto di causa-effetto con la caduta di Strootman, e quindi sarebbe finalizzata all'evidente simulazione per trarre l'inganno l'arbitro. E qui siamo a un overrule, del giudice sportivo. Avvocato, qui siamo già all'ammonizione, però, cioè la sanzione per questo già c'è stata, o no? Assolutamente sì, è per questo che sto dicendo che l'utilizzo, il precedente pericoloso che ha portato alla squalifica di due giornate di Strootman, consiste nel fatto che un episodio comunque supervisionato direttamente dal campo, perfetto, dall'arbitro, perfetto, sanzionato disciplinamente dall'arbitro in relazione ad un fatto che è accaduto, cioè la strattonata, ha indotto il giudice sportivo, prima di tutto la Procura federale, a trasmettere al giudice sportivo la prova televisiva, a intervenire, a rivisitare, a vivisezionare nuovamente quell'episodio, sostenendo che, seppur meritevole dell'ammonizione, Strootman, seppur sanzionando Cataldi con una giornata di squalifica per uno strattonato, Strootman è caduto in maniera totalmente innaturale. Perfetto, e siamo d'accordo, però questo è previsto dalla legge? No, cioè, diciamo che ovviamente siamo in pendenza di un ricorso in appello avanti alla Corte Sportiva d'Appello da parte della Roma, certo. E se l'occasione, credo già domani, di riunione della Corte Sportiva d'Appello sarà quella di scrivere definitivamente quali sono i margini in cui il giudice sportivo può intervenire a posteriori sulla prova televisiva, perché in questo caso, ripeto, si è a mio avviso andati oltre. Dunque, secondo lei è da annullare o da ridurre a una giornata? A ridurre una giornata no, perché la partita davanti alla Corte Sportiva d'Appello è secca, o rimangono due o diventano zero. Ah, ecco. Secondo me, perché andrebbe annullata. Esatto, secondo me ci sono margini perché la Roma ottenga l'accoglimento del proprio ricorso, ripeto, perché il precedente è pericoloso e se passa questo precedente, mille altri episodi, seppur controllati direttamente dall'arbitro, potrebbero comportare un'ulteriore valutazione in sede disciplinare, certo, con sanzioni ulteriori. Però posso dire una cosa, avvocato, che io ho l'impressione di una cosa: se si ammette la prova televisiva, limitarla ai casi in cui lei dice precedente pericoloso, invece secondo me sarebbe un precedente salutare. Al di là di Strootman, sì, sarebbe assolutamente. Allora, ragazzi, decidiamoci, allora, però: decidiamoci, o la prova sulle televisiva leggi vale, no, o la prova televisiva. Infatti, secondo me bisognerebbe modificare questa norma. Cioè, o la prova televisiva vale per tutto, vale per tutto. Dunque, dove non arriva l'arbitro, arriva la prova televisiva. Ragazzi, è che altrimenti se la limitiamo solamente a dove l'arbitro non arriva. Allora, la prova televisiva non può valere dappertutto, perché altrimenti noi avremo 3-4 verità, 3-4 partite giocate, una in campo, no, una alla prima. Avvocato, non dico su tutto, sulle decisioni prese dall'arbitro. Sì, però l'overrule non è ammesso, Giuseppe. L'overrule sulla decisione dell'arbitro. Come nel tennis. È quella decisione che modifica la decisione di un altro giudice di linea da parte del giudice di sedia. Nel calcio questo la prova televisiva non lo consente, perché la prova televisiva può operare solo per episodi sfuggiti al direttore di gara. Esatto. Secondo noi è la contraddittorietà della stessa motivazione che da un lato dice: Strootman è vero che viene strofonato, è vero che l'arbitro lo vede, ma la caduta di Strootman è talmente innaturale che l'arbitro non si accorge che è un'evidente simulazione. Questa è la contraddittorietà della decisione. Si è accorto, perché altrimenti perché l'avrebbe ammonito? Non si è accorto che fosse un'evidente simulazione. Ho capito, però ha giudicato. Però ha effettuato una valutazione, come è nel suo compito, giusto? Assolutamente. È un caso molto al limite, ma ripeto, la Corte Sportiva di Appello dovrà riscrivere i paletti della prova televisiva, perché la prova televisiva non può essere utilizzata indiscriminatamente. Ci sono regole molto rigide, proprio perché la sovranità dell'arbitro in campo deve essere mantenuta, altrimenti diventa un robot. Però la questione, al di là della questione delle questioni tecniche, che sono importanti naturalmente, su cui adesso ci accapigliamo e sono sempre fondamentali, rimane una sola. Adesso l'avvocato chiaramente è un tecnico e dunque non può rispondere direttamente. Cioè quello che metà dell'Italia pensa, in particolare quello che pensano a Roma, è che nell'imminenza, non lo pensa solamente il tifoso, lo pensa un dirigente importante della società AS Roma, che si chiama Baldissoni, il quale ha detto: chissà perché, per caso, questa squalifica è arrivata alla vigilia di Milan Juventus. Cioè non l'ha detto così tra le righe, l'ha detto direttamente, cioè ha pronunciato le parole Milan e Juventus. Adesso, avvocato, secondo lei è possibile si sono fatte delle rettifiche? Questo mi sembra ancora più ridicolo. Sì, rettifiche sulle frasi di Baldi, sulle frasi, cioè, questa è una cosa che è stata detta. Secondo lei è possibile che ci sia questo tipo di atteggiamento o lo reputa una cosa fuori dal mondo? Io mi rifiuto di credere che la giustizia sportiva possa adottare provvedimenti a orologeria in vista di partite più o meno importanti per le avversarie della Roma. E a questo proposito ricordo un caso abbastanza simile l'anno scorso che ha fatto parlare tanto, quello sì, mi ha visto protagonista professionalmente, che sono state le 4 giornate di squalifica a Higuain. La 4ª giornata di squalifica coincideva con la partita Napoli-Juventus, Juventus-Napoli. Ebbene, si fece ricorso, la squalifica venne ridotta a 3 giornate e Higuain saltò 3 partite, chiamiamole così, normali, e poté prendere parte alla partita contro la Juventus. Quindi io, per rispondere, come dire, a questo sentire comune che mi si dice essere di dominio pubblico a Roma o tra i tifosi a Roma, tra i dirigenti della Roma, io assolutamente, anche da un punto di vista, diciamo, di cultura sportiva e di credere nelle istituzioni, perché i giudici sportivi sono giudici che per puro volontariato Vabbè, questi sono sempre uomini, quindi, sono sempre uomini. Sì, però a maggior ragione, visto che credono in un ideale e sacrificano altre cose per fare un qualcosa che comunque li soddisfa, io devo anche, appunto, da detto ai lavori, da tecnico, perché davanti a quei giudici ci vado settimanalmente, devo credere. E poi dal punto di vista difensivo, scusi avvocato, per quello che riguarda la Roma non è una grande mossa, cioè dire il giudice ci ha squalificato Strootman perché dobbiamo giocare col Milan e la Juventus, no. Diciamo non arrivi con un bel biglietto da visita nemmeno all'appello, o no? Esattamente, diciamo che bisogna avere fiducia, perché comunque sono giudici seri e preparati, gli errori, come diceva lei, sono uomini, ci possono stare, ma tutti assolutamente in buona fede. Poi c'è sempre un giudice d'appello che in pochissimi giorni, perché anche la velocità della giustizia sportiva è una garanzia in ordine alla certezza di questo interdisciplinare, domani verosimilmente la Corte Sportiva d'Appello ci dirà se le due giornate sono state inflitte correttamente e dovrà spiegarne il motivo, o se le annullerà, delimiterà e spiegherà poi i casi futuri, quando il giudice sportivo può intervenire e quando non può intervenire. Io sono per la seconda che ha detto. Secondo me è stato creato un enorme pasticcio e queste due giornate verranno cancellate con la gomma. Io sono di questa idea, perché se no si crea un precedente per cui bisogna... bisogna riscrivere allora a quel punto l'intero regolamento. Grazie avvocato. Grazie a voi. Grazie, ci fermiamo un attimo per il traffico. 800 24 0024 numero verde, e poi apriamo le gabbie dei leoni. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Tutti convocati. Noi facciamo giurisprudenza, quindi vediamo da anni, purtroppo, si ripetono occasioni in cui i confini della giustizia sportiva vengono ampliati sulla pelle della Roma. E sinceramente questo lascia un senso di profonda inquietudine, soprattutto perché siamo in una fase critica e rilevante della stagione, stiamo per affrontare la seconda e la prima in classifica e guarda caso subiamo una squalifica assolutamente inattesa e inconcepibile per quello che è la nostra valutazione. La squalifica di Strootman, a questo punto c'è da aspettarsi di tutto, insomma, ecco. Si va poi a poter considerare qualsiasi cosa, a poter prendere per buono qualsiasi cosa, se questo è il taglio di lettura che gli si può dare. Posso semplicemente dire che Baldissone è un tifoso romanista e quindi è giusto che abbia questa esternazione. Poi mi pare che la prima partita la giochino contro il Milan e oggi l'amministratore delegato della Roma è Umberto Gandini, che è una persona molto seria, preparata e conosce il regolamento, quindi si dovrebbe confrontare con lui. Allora, queste sono nell'ordine le parole di Baldissone dell'altro ieri, quelle di Spalletti di ieri, quelle di Marotta sempre di ieri. Io saluto e ringrazio Giampiero Moghini e Luca Telese. Giuseppe Cruciani è qui con me. Allora, ciao, buongiorno. Buongiorno. Il punto cari amici. Il punto del contendere qual è? Ieri, Giampiero, sono stato invitato da un tifoso della Roma ad inginocchiarmi ogni volta che parlo dei giallorossi. Io ho detto che non, ovviamente non lo farò mai. Stiamo discutendo perché ho usato la parola complottone. Ho usato la parola complottone ed è quella che è stata evocata dai protagonisti. Qual è il punto del contendere, Giuseppe? Secondo me non c'è nessun complotto, trovo ridicola la squalifica di Strootman per le motivazioni, per quello che ho letto, ma parlare di complotto, che giudici sportivi si siano messi in coalizione o un giudice sportivo per evitare a Strootman, per impedire alla Roma di schierare Strootman contro Milan e Juventus, mi sembra come al solito una cosa patetica di vittimismo che attanaglia ogni volta Roma e la Roma in particolare, ma non solo Roma e la Roma, pensiamo a Napoli tante volte, come fu nel caso di Higuaín l'anno scorso, prima della sfida con la Juventus, la squalifica poi fu ridotta. Non penso che ci sia un giudice juventino o laziale, non so che voglia impedire a Strootman di giocare contro la Juventus. Alla Juventus penso che non freghi nulla se Strootman gioca o non gioca. Beh, Ma no, ma non è quello il punto, dai, se non è che si vince una partita o si perde perché c'è Strootman, dai ragazzi, non scherziamo, cioè non è questo il punto. Beh, non tu è... togli un giocatore importante a una squadra per in un modo discutibile. Sì, ma è dubbio. Una Baldissoni dice una cosa assurda, cioè Baldissoni tra l'altro si presenta di fronte all'appello con il ruolo della vittima, che è il ruolo migliore per non prendere nulla, per non ottenere nulla, cioè stai zitto, vai lì, fai appello e probabilmente ottieni un successo, anche perché ho letto la motivazione, mi sembra che la motivazione, cioè la squalifica perché si è visto che la simulazione è talmente evidente da aver provocato poi la espulsione di Cataldi. Mi sembra abbastanza fragile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista giuridico. Giuridico. Dal punto di vista giuridico. Guarda, a mio parere nessuno di questi andava espulso. Ti dico la verità, nessuno di questi andava espulso. Cioè, o tu vedi la bottigliata, il getto d'acqua in faccia, che è la e cosa su più quello, grave, e su quello si prende un provvedimento, ma anche la strattonata alle spalle di Cataldi, che lo voleva semplicemente prendere per dire: oh, ma che mi hai fatto? Mi hai tirato l'acqua in faccia. Ragazzi, ma allora bisognerebbe cacciare metà dei giocatori ogni partita, dai. Sì. Giampiero. Sì, anch'io sono a priori, io sono per cacciare il meno possibile, anche dinanzi a cialtronate talmente evidenti come era la pantomima recitata da Strootman. Quindi la premessa è questa, io sono per spegnere subito queste micce, le dichiarazioni di quel fessacchiotto laziale sulla vendita dei calzini, fesserie, con quello che gira nella vita pubblica italiana. Questo è l'antefatto. Poi il giudice valuta invece che la cialtronata di Strootman è grave, valuta. A questo punto parte un'operina teatrale, una mediocre operina teatrale, ben nota, esiste da anni, eccetera, che c'è il complotto, non so, dei poteri forti, della loggia massonica, dei giudeo-massonici. Sono tali porcate che rispondere sarebbe offensivo. Io offenderei me stesso e non rispondere, se replicassi a queste fesserie. Ragazzi, ma sono delle fesserie colossali. È dire che un giudice si mette lì a squalificare Strootman perché la Roma deve affrontare Milan e Juventus. Siamo a livelli veramente. Telese non è d'accordo. Cioè, siamo a livelli di espulsione per i dirigenti. Lasciamo parlare. Andrebbero cacciati Laziali, i dirigenti. Andrebbero cacciati. Ma che c'entra Laziali? Perché devi dare la patente? Ma perché? Allora, noi dalla passione accecati. Noi dalla passione. Ha ragione Giuseppe a dire che lì non c'era nessun provvedimento. Anche perché la fattispecie della simulazione fuori dal campo di gioco assurda. Ma io voglio leggere la sentenza, perché bisogna leggere la sentenza. Allora il giudice dice che non prende provvedimenti per la bottiglietta, cito testualmente, non può ritenersi rilevante ai fini dell'articolo 35.1.3 del codice sportivo, non trattandosi in sé né di fatto di condotta violenta non visto dall'arbitro, né di condotta gravemente antisportiva. Vabbè, adesso che ti metti a fare il coso, ti metti a fare l'eguleio, non ho capito, ma queste sono cose che vedranno i giudici sportivi, no? Ma sono cose che vedranno i giudici sportivi, Luca. Le hanno viste, allora io non capisco, c'è un assurdo, intanto c'è una foto, quindi lo strattonamento c'è stato, o non è grave e allora non c'è espulsione, è grave, ma allora ho capito, però non c'è, non è previsto dal regolamento l'overrule arbitraria, perché hanno dovuto, ma arbitraria vedremo, lo dico anche scusa, ma mi fai finire, sì. Se non mi fai neanche parlare, ma no, ma stai parlando, hai citato le leggi, hai citato, almeno Giampiero dice la sua cosa dell'operina teatrale, è contento e finisce lì. Io vi sto dicendo questo, la sentenza non ha nessun senso dal punto di vista di quello che hanno scritto i giudici, perché non, ma perché è non parli di Baldissoni? Perché fai il giudice sportivo? Parla di Baldissoni, no, del giudice sportivo. Allora vorrei che qui, ma parla di Baldissoni che parla di complotto su Milan e Juventus, no, del coso, dai. Consentissero a me di parlare. Ma che, allora, ma che fai quello che non può parlare, Luca? Ma sei impazzito, sei. Cioè, stai parlando di leggi, ma a me non mi interessa parlasse un giudice di leggi. Tu parla delle cose che ha detto Baldissoni, no? Fate parlare Marotta, non so. Ma che c'entra Marotta? Così è finita, perché esiste in Italia anche il buon senso di andare a vedere. La sentenza non sta in piedi perché deve, ma quello è il giudice che lo decide, non Telese, non Telese. Ma c'è un conduttore qui, santo Dio, capisco che siamo accecati dalla follia, ma intanto non è complotto. Uno può fottere un giocatore in gamba all'avversario? Beh, è contento se questo giocatore viene fottuto. E chi è contento? Il giudice? Il giudice è contento? Aspetta, fammi sentire la fine dal punto di vista di Telese, poi sento Giampiero Munieri, allora, qual è la sua replica? Loro hanno scritto nella sentenza che non si tratta della l'acqua. Hanno scritto però perché gli devono dare due giornate per eliminarlo dalla Juventus che si tratta di simulazione, ma esistono foto, reperti fotografici che fanno vedere ma chi che lo vuole eliminare? La chi lo vuole eliminare? No, aspetta un attimo. Luca, io chi? Luca, no, mi fate venire, ma non riesco a finire. Luca, giocate tutti da soli, in 11 contro nessuno, così come Luca, quello che ti voglio dire io è che se Baldissone fatemi dire una cosa, perché l'assunto che non possa esserci complotto è sbagliato, i fatti parlano. Allora non è comportamento antisportivo perché lo scrivono i giudici. Ma chi l'ha fatto il complotto? Chi l'ha fatto il complotto? C'è la foto. Ma dimmi chi l'ha fatto il complotto. Mi sembri. Quindi Strootman viene tolto dal campo, mi dovete dire perché. E no, ma tu sei lì, ma sei tu per che due giornate perché? Applicando la simulazione quando perché? Invece lo strattonamento c'è. Evidentemente a voi fa comodo che non giochi Strootman. Ce ne faremo una ragione, Luca. Ma io che c'entro? A me non me ne frega niente, io non voglio la squalifica, t'ho detto per nessuno. Mi stai dicendo che c'è il complotto, mi devi dire nomi e cognomi. Dimmi nomi e cognomi del complotto. Chi è che sta tramando a favore della Juventus o del Milan? Allora, i giudici che scrivono che non si tratta di punizione. Ma non fare il leguleio, hai parlato di complotto, parla di Baldissone. No, simulazione. Allora, con la simulazione lo tolgono due giornate. E questa è una schifezza. E vorrei che Mughini, anziché parlare del teatrino, dicesse: leggo questa sentenza e capisco che è una schifezza. Vabbè, sentiamo Mughini. Ma sapete, io mi sento, come posso dire, un po' umiliato, anche un po' offeso. Cioè che qualcuno mi dica che io sono accecato dalla passione è puramente offensivo, è un'offesa di cui farei a meno. Ripeto, la discussione è talmente miserevole. Io auguro a Strootman di giocare, non dico le prossime due partite. Ma le prossime 2000. Oh, bene, e allora? Naturalmente, allora ma che la punizione, non so se è giusta, non so ingiusta, perché entriamo in un ambito che Cruzani definisce leguleio, di cui io... Ma il punto non è assolutamente questo, il punto è che ci sia il complotto, l'eterno favoritismo, l'eterno, come si dice, l'eterna persecuzione dei giallorossi che avrebbero vinto 50 scudetti. Voglio finire qui la discussione perché mi sento umiliato da questa discussione e con questo ho messo un punto. No, ma la realtà è quella che dice Giampiero. Ragazzi, il problema non è la ragione giuridica di questo. Ma a parte che non è vero che c'è l'appello. Siete umiliati. Allora, ragazzi, il calcio. No, allora, il fatto che cercate di negare è che Strootman non gioca, è stato strattonato. Se vuoi continuare su questo, facendo finta di essere stato mitragliato, se la vuoi mettere su questo punto, ha fatto finta di cadere per terra come se fosse stato colpito da un cecchino. Allora, il conduttore lo faccio io e dico una cosa. No, le sembra parole, che Strootman è caduto così. No, aspetta, Giuseppe. Ha simulato tutti quanti, compreso Telese, è d'accordo sul punire i simulatori se lo vuoi mettere su questo. Attenzione, le parole di Baldissone, quel guarda caso viene squalificato prima delle partite su Milan e Juventus. Ma è una vergogna quella dichiarazione, dai, è una vergogna di cui Telese si dovrebbe vergognare di questa roba qua. Aspetta. È una vergogna. No, perché io voglio sentire Luca Telese. È una vergogna, si dovrebbe vergognare per primo Telese di affidarsi sempre al vittimismo e alla cosa, guarda che caso Milan e Juventus, su dai. Su quelle parole che sono state rettificate dalla Roma. Allora, ma rettificate che se l'ha detta, rettificate che cosa? Il 100% di quelli che le hanno sentite, Luca, ammetterai, hanno interpretato quelle parole come chi dice guarda caso prima di Milan e Juventus. E guarda caso non è guarda caso detto lui così. Lui ha detto ci sono due partite delicate, Milan e Juventus, guarda caso. Ma quel guarda caso è stato rettificato dalla Roma. Poi la massa dei tifosi lo interpreta, ci hanno squalificato Strootman proprio prima di Milan e Juventus, hai visto? Non ce vogliono far vincere lo scudetto, Luca. Dai, su, basta con sta storia ridicola di vittimismo patetico, dai. Il fatto è che Strootman non gioca. Secondo, sono d'accordo con Cruciani prima che sbroccasse, per il suo anticonformismo laziale. Cioè, ma io non sono, basta questa cosa, sei tu della Roma tifoso, io non sono tifoso della Lazio, come tu sei della Roma. Nessuno dovrà essere squalificato. Terzo punto, il rapporto dei giudici è in contrasto con quello che è stato deciso, sono tre cose inoppugnabili. Ognuno di voi tragga le conseguenze. Adesso ti sei messo a fare il giudice, va bene, abbiamo scoperto che Luca Telese, dopo aver risolto il caso Bossetti, si è messo anche a fare il giudice sportivo. Va bene, va benissimo, per carità. No, ma va bene, se ti sei messo a fare il giudice, se ti sei messo anche a risolto il caso Bossetti, a fare il conduttore televisivo, adesso si è messo a fare anche il giudice sportivo. Va bene, no, ma abbiamo scoperto una terza professione, dopo il cronista di rete, dopo il conduttore televisivo. Va benissimo, va benissimo. Allora, si è messo aspetta, a fare il giudice sportivo. Per radio è un casino. Di una sentenza. Stiamo parlando di una sentenza. Mi sono letto la sentenza. Anche un noto conduttore radiofonico di un programma che ha un nome da coleottero o da insetto può leggersi una sentenza. Ma io l'ho letta la sentenza. Ma cioè, è talmente allora, complesso l'interpretazione delle cose. Non è riducibile al fatto. È una schifezza, una vergogna, uno schifo. Non è così. Anche per me ci sono delle cose che non vanno in quella roba lì. Trotman non gioca. Ma non è vero che non gioca, vedrai che giocherai e ti dovrai rimangiare tutto. Non gioca due partite. No, no, Luca. Siamo contenti. Gioca per una due cosa partite. Che come tu le hai gioca, detto, le gioca quelle due partite. Detto, non dovrebbe meritare espulsione, salta due partite. Ma nemmeno quella di Cataldi, però, dovrebbe meritare espulsione. E neanche Cataldi. Allora, chi ha tempo e chi vuole, resta dopo una brevissima pausa. Io chiedo a Giampiero Moghini, a Luca Telese, a Giuseppe Cruciani di rimanere qui perché la discussione è accesa e molto interessante. Quindi vi prego, restate, torniamo subito. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, nella Arena dei Leoni, Giuseppe Cruciani, Giampiero Moghini e Luca Telese, prima di salutarli voglio sentire una chiosa da loro, a partire da Giampiero. Che no, non c'è davvero nessuna chiosa. Io auguro alla Roma di essere in tutto il suo splendore di uomini e di risorse in campo e che vinca il migliore, naturalmente. E trovo offensivo per me se io accennassi a qualche altro elemento della discussione quale c'è stata nei minuti precedenti. Però, scusami. E con questo auguro a voi una buonissima domenica. Una buonissima domenica. Ciao Giampiero. Ciao. Però, grazie, però... diciamo la verità. Allora, Luca, siccome tu mi trascini su questo discorso, allora diciamola tutta. No, diciamola tutta. Allora, tutto viene innescato. Tutto l'episodio di cui stiamo parlando, che poi arriva a questa farsa, le squalifiche, i ricorsi, il vittimismo al Milan, la Juventus, Baldissoni, la replica della Roma, quello che abbiamo sentito. Come ci si arriva? Da un solo episodio. Ci si arriva dal fatto che un signore che si chiama Strootman, io considero un grandissimo giocatore, non solo un grandissimo giocatore, anche una persona, come dire, degna di stare nel mondo del calcio, non è un coglione qualsiasi, non è un violento, bravo, un provocatore di solito, è un signor giocatore in tutti i sensi, come mm-hmm. tutti i signori giocatori mm-hmm. hanno ogni tanto dei momenti in cui, non dico che perdono la testa, perché non è che si tratta di perdere la testa, non il ha fatto che su un campo di calcio ci può anche ha stare fatto, eh? Sì, per carità, ha tirato un po' di acqua con la bottiglietta mentre stava esultando, probabilmente perché se ne erano davanti alla panchina eccetera, sulla faccia di un giocatore della Lazio. Allora, quel gesto lì va sanzionato, sì o no? Perché secondo, come dire, bravo, la sentenza ha detto che non ma va lascia sanzionato. Perdere adesso la cosa, la sentenza ha detto non che ha... e sai che cos'è che dà un fumus? Perché se lo avessero sanzionato per quel gesto, che però non è stato rilevato, considerato grave, avrebbe avuto una logica, invece gli hanno dato la simulazione per poterli dare. Comunque ragazzi, comunque, questa è la logica. Vabbè, questo ti seguo, su questo due ti seguo. Partite, e avevi ragione tu all'inizio, non era un episodio da sanzionare. Secondo me, no, d'accordo, però troppo, possiamo decidere che tutti quanti da oggi in poi possiamo tirare addosso l'acqua, un giocatore può tirare addosso l'acqua a un altro giocatore. Va bene, facciamo così. Giuseppe, però il discorso non è questo, il discorso è un discorso giuridico. Ma sì, però i discorsi giuridico. Ma se l'hanno messa sul piano bravo. Ma se l'hanno messa su un altro piano subito, quale no, discorso giuridico? È un discorso giuridico. Discorso giuridico, aspetti perché? L'appello. Aspetti l'appello. Perfetto, prima di scatenare però, le danze. No? Però si tratta di capire se fosse questo, si tratta di capire se esiste un overrule del giudice sportivo attraverso adesso, la prova televisiva. Mi dà fastidio sto overrule, mi dà un fastidio enorme. Vabbè, che cazzo di parola ti devo dire? Una revisione, facciamo una revisione con quella delle macchine. Una revisione del giudice sportivo, ma sì, ma ragazzi, sulla sentenza dell'arbitro, allora, in campo. È tutto regolare, secondo me. Non quadra nemmeno a me. L'unica cosa che stona, ma l'ho detto all'inizio, bene. Luca, l'ho detto all'inizio che non quadra nemmeno a me questa roba qui. Che la simulazione di Strottmann provoca l'espulsione, dunque vanno date due giornate. Se avessero dato due giornate per l'acqua, avrei detto: vabbè, ci può stare. Sì, certo, punto, quello e basta. Quello anch'io. Cioè, il punto fondamentale è questo. Ma quello che stona non è. Questa è una procedura. Se uno non ci vede dietro i fantasmi, è una procedura di un giudice che è stato troppo, diciamo, attento ai dettagli, ai particolari, troppo solerte. Non lo so, non voglio pensare che sia pagato dalla Juventus e dal Milan. Non ci posso pensare, perché non ho le prove per dirlo. I giudici sono uomini, l'ho detto prima, e ovviamente, essendo uomini, possono anche sbagliare, possono anche avere del tifo, della passione. Non stiamo qui, non siamo nati ieri, no? Cioè, la cosa che ti dico è che l'unica cosa che stona sono le parole di Baldissoni in tutta questa vicenda. Punto e basta, ma è evidente. E su questo sono d'accordo, Luca, però. Luca, te sta al telefono, lo stanno rimproverando. No, che sta al telefono. Io sono contento che Cristiano alla fine mi abbia dato ragione. No, non ma ho detto che l'unica cosa che politica, stona, l'unica cosa che stona è Baldissoni, ho detto. Sono i tifosi del calcio vero, perché Strottmann non giocherà. Punto. La partita, sono d'accordo con voi. Vabbè, ciao. Ciao Luca. Ciao ragazzi, vi saluto, ciao. Vai via anche te. Vado via anche io. Vorrei parlare del biscottone del Real Madrid che ha fatto 2-2. Adesso e sembra che l'abbia fatta apposta. Non ho prove, l'abbia fatta apposta per arrivare secondo. Come fa avere prove, però l'ha fatta apposta. Devo andare a mangiare. Non lo so se l'ha fatta apposta. Certo, è più in questo momento in una condizione migliore, perché l'unica squadra pericolosa che può incontrare è la Juventus. Sì, esatto. E dunque non la incontrerà. E dunque non la incontrerà. Juventus Paris Saint Germain, secondo me. Ciao. Ciao. Ciao Giuseppe Cruciani. Allora andiamo con il traffico, poi arriva Pardo e parliamo del biscottone. Tutti convocati. Tutti convocati. E dunque torniamo dopo questa infuocata battaglia sul caso Strottmann con Cruciani, Mughini e Telese protagonisti. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Eccolo, come va? Bene, non c'è bene. Male. E ne apriamo. No, aiuto, chiamata di chiama preoccupata, dice: non ti sento in radio, va tutto bene. Dico: sì, tutto bene. Tutto a posto. Nessuno si è trovato d'accordo, ma comunque tutti metterà d'accordo il giudice sportivo d'appello. Sì. Saluto Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Siamo al top. Adesso parliamo di biscotti. guarda un po'. No, è verdad. Puntata polemica, mamma mia. Rodman, biscotti. Real Madrid, cioè, dai, è chiaro che Real Madrid ha scelto di arrivare secondo. Ma figurati, ci ha provato in tutti i modi, ha preso un palo, gli ha salvato un gol sulla linea, erano il 3-1, è uno dei Real Madrid più belli della stagione, cioè, no. Non sono con voi, non vi seguo. No, allora la pasticceria è chiusa. È un Real Madrid in crisi che pareggia questa partita, con un avversario ridicolo. La frase ce l'ho io. Nonostante i ripetuti sforzi e la qualità del Real Madrid che meritava di stravincere il match, è arrivato un pareggio che tutto sommato potrà essere accolto comunque positivamente. Mettiamo la croce con la matita indelebile sullo scudo crociato. Cioè, voi non vi rendete conto? Cioè, quando mai il Real Madrid si è preoccupato di un sorteggio? Se pesca sempre l'avversario più facile. Cioè, che problema c'è? Primo, secondo. Guardate le ultime tre Champions del Real Madrid. Non ha giocato con nessun avversario complicato. Ho capito, che vuol dire? Allora si affida agli dèi dell'Olimpo del calcio? C'è anche Sofia Loren, Italia 90, le palline più calde, più fredde, non so, comunque la Juve non la prende, dai, tranquilli. No, anche perché è l'unica difficile che può prendere questo punto. Esatto. Anche il Napoli secondo me non è... Ranieri al Bernabeu è scontato, diciamo che prende una pallestra e Monaco, dai. Esatto, dai. Cioè, Ranieri, il ritorno di Ranieri che vinse al Bernabeu nel 1999, ultima vittoria dell'Atletico Madrid, e poi ci furono qualcosa come 20 anni di Moria, no, 15 in realtà, fino all'arrivo di Simeone, no, per me io vedo un Leicester qua. No, in realtà, a parte gli scherzi, ieri sera il Madrid ha fatto tutto quello che doveva per vincere, insomma, poi dopo li ha infilati in contropiede, è stata una partita bellissima, assolutamente poteva, il palo di Ronaldo, il tentativo di Benzema salvato da Schmelzer sulla linea, il Madrid ieri a me è piaciuto un sacco, per cui effettivamente spero che non becchi la Juve, ma non per altro, perché sarebbe una partita apertissima, con un leggero vantaggio per il Real Madrid, però che la Juve giocherebbe poi in casa, ma speriamo che tutto questo non avvenga e che il Real Madrid prosegua gonfie vele con avversari abbordabili, e lo stesso sia per la Juventus, no? Sì. Per il Napoli, ovviamente. Questa è una chiara sintesi sportiva, poi dato che siamo in Italia, che sono 45 minuti che parliamo che litighiamo in maniera furibonda sui complotti, tu mi vieni a dire che Real Madrid ha fatto tutto per vincere quando insomma, è stato il Paris Saint-Germain, invece, come me lo Membri inquadri che pareggia con Ludo Paris Saint-Germain, mi sembra una squadra in una involuzione profonda importante, perché scusa, nel weekend pure non ha preso 3-4 pappine da qualcuno, da chi era, che scusatemi, però una squadra mediocre, però a parte tutto insomma mi sembra abbastanza strano, io sono d'accordo con te che oggi francamente è difficile capire chi a febbraio sarà migliore fra Arsenal, esatto, questa è l'altra cosa, perché può succedere di tutto, lo sappiamo, questo sorteggio qui è quello più imprevedibile, no? Cioè infortuni, cali di forma o nuovi acquisti, miglioramenti di forma, cioè troppo tempo, dai, questo è un sorteggio che oggi lascia il tempo che trova, a parte che troppo sarà tempo, però diciamo che mentre l'anno scorso arrivare primi veramente dava un vantaggio, perché tutte le migliori quasi erano arrivate prime, quest'anno è un grande mischione. Io sono dell'idea, mi piace l'idea che la Juve e il Napoli abbiano vinto il loro giro. La Juve ce l'aveva come obiettivo fin dall'inizio, il Napoli ce l'aveva come obiettivo fin dall'inizio, è una forma di esame su se stesso, è qualcosa che aiuta, la famosa frase banale, vincere aiuta a vincere. Visto che fate così, io impiego gli ultimi 4 minuti di questo blocco per farvi fare il sorteggio degli ottavi. Rovini questo momento democristiano. Rovino questo momento democristiano. Allora, prima in classifica Napoli, Barcellona, Atletico Madrid. Sappiamo che quelle squadre dello stesso paese non si possono incontrare. L'ha sentito Luis Enrique l'altro giorno? Sì. Quando ha detto, noi è facile, prendete la peggior seconda e ecco, quella ci tocca a noi. Monaco, Borussia Dortmund, Leicester, Juventus, queste le prime, seconde Benfica, Manchester City, Bayern Leverkusen, Real Madrid, Porto, Siviglia. Allora, cominciamo dalla Juventus, chi prende? Il Benfica. Ecco, bellissimo, dai. Botta di culo incredibile. D'accordo? Ma vabbè. Sei d'accordo, Phil? Sì, può essere, mi piace, altrimenti cosa possiamo assegnare? Andiamo a Porto, andiamo tutti a Porto, però potremmo prendere anche il Napoli dal grande Casillas, il mio grande sogno è Porto e Benfica, così mi tocca facciamo Juventus Benfica e Napoli Porto in un doppio confronto italo portoghese, rimaniamo a casa e siamo già nei quarti, dai. Stupendo. Il Barcellona prende, hai detto, Filippo? È la più difficile, quindi cos'è? Il Bayern, mi sembra. Il Bayern. Cioè, così sostiene Luis Enrique, prendete la più difficile e noi ci toccherà quella, quindi cosa c'è? Mi sembra che dal punto di vista statistico, sai che c'è Mr. Chips, una serie di siti che fanno tutta una serie di incroci, di credo che Barcellona Bayern sia la più probabile, l'ho anche visto stamattina. Credi che? Non ho capito. Sì. E quindi Barcellona Bayern, l'abbiamo detto, va bene, quindi Barcellona, va bene. Poi poi Real Madrid Leicester Real Madrid, Real Madrid, Leicester. Ci quindi sta, siamo a 4, ci già, ne abbiamo già 4. Zidane, I got big respect for him. Il Monaco, esatto. Il Monaco? Zizou is Zizou. Monaco che ha finito, primo o secondo? Primo. Ma Monaco-Siviglia. Monaco-Siviglia, bella. Ah, sì, che fa proprio... Sì. No, però qua siamo incasinati. Tutto sì, c'è una... Il Borussia, il Borussia Dortmund non può prendere il Bayern Leverkusen, ragazzi. No, e quindi gli rimane? E anche il Bayern, No, il Bayern l'abbiamo già dato, l'abbiamo già messo. Le abbiamo finite. Il Barcellona con chi abbiamo messo? Col Bayern, appunto. Col Bayern Monaco. Ah, così avete fatto proprio brutalmente. Brutalmente, sì. Proviamo una benfaria per il Dortmund, scusate. Scusa, non le abbiamo tolte tutte. Questo qui che è il gioco chiave della trasmissione, che da stamattina c'è, cioè, De Luca è citato, ha fatto un liquid. Esatto. Avrai la lista delle squadre. queste sono, non puoi prendere quelle né del tuo gruppo né del tuo paese. Chi è rimasto per il Dortmund? Per il Borussia Dortmund è rimasto, vabbè, il Porto l'hai già assegnato, il Siviglia l'hai già assegnato. Il Benfica è rimasto. Benfica? No, perché abbiamo fatto il doppio confronto italo-portoghese. Il Benfica l'abbiamo dato la Juve, scusate, sono bollito io. Il Siviglia l'abbiamo fatto fuori. E il Manchester City? Manchester City, ecco, sì. Manchester City. Chiamo giudice sportivo, chiamo Mughini, Telese, Cruciani e Baldissone, facciamo un casino infernale. L'Arsenal, con chi lo mettiamo? L'Arsenal è rimasto fuori, con chi è rimasto? Però voglio dire, adesso qua... veramente ribadisco, non voglio fare polemica, però tu c'hai 8 squadre da una parte, 8 dall'altra, non è che è difficile, bisogna prendere un foglio di carta, aspetta che prendo un foglio e una penna. No, vabbè, fallo per domani. Ma come per domani? No, ma rimaniamo dopo. Rimani, va bene, allora rimani dopo il GR, io saluto Filippo Maria Ricci che qui è venuto mal di testa. Esatto, e mi tengo guardo che ha preso carta e penna. Dai, ci sentiamo dopo il GR. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Tutti convocati. Sì, sì, per tutti e due, però non solo per noi, anche per loro credo. Però no, sono contento che il Napoli è passato e ci abbiamo due italiani avanti. Però sì, veramente c'è questa grande possibilità. Adesso si guarda al sorteggio, forse è l'avversario che non vuole incontrare la Juventus. Sì, quello non voglio, però alla finale non possiamo fare niente. Noi vediamo lunedì cosa toccherà. Non lo vuole per ragioni di cuore o perché crede che la Juventus sia un avversario molto forte? Tutti e due. Mi sembra che il vantaggio materiale arrivando primi è veramente poco, cioè, quindi era più per nostra soddisfazione, perché siamo convinti della squadra che ha giocato meglio in questo girone e siamo stati noi. Conviene questo primo posto visto le seconde? Conviene, dipende dalla pallina, se la pallina è giusta conviene, se la pallina non è giusta conviene lo stesso, perché tanto bisogna giocarci contro. È una squadra molto forte e spero non giocare in contra di loro, così è meglio se giochiamo la finale. Però no, adesso dobbiamo vincere contro tutti se vogliamo essere campioni. Allora, abbiamo sentito un po' di pareri sui sorteggi. Pierluigi Pardo ha preso carta e penna e ha compilato. Ho fatto tutto. Allora, c'è anche Antonio Giordano, attenzione. Sì, al di Napoli, ragazzi. Il Napoli prende il Manchester City, secondo me. No, questo ha deciso Pardo? No, l'ho deciso io. Hai deciso tu? Sì, perché va bene. Sono giudice sportivo, posso squalificare Strootman per due giornate. Adesso abbiamo fatto i sorteggi taroccati nostri: Napoli Porto, Juve Benfica, Leicester Real Madrid, Dortmund City, Barcellona Bayern, Monaco Siviglia, Atletico Madrid Paris Saint Germain e Arsenal Bayern Leverkusen. Tutto fatto. Tutto sotto controllo. Vuoi già i quarti di finale? Te li faccio. Per carità. Organizzazione. Ma te li faccio i quarti di finale? Non è difficile. Real Madrid Arsenal, Napoli, Atletico no, Madrid. Real, secondo me Real Madrid, Real Madrid prendere Barcellona Bayern, io sono convinto. Barcellona Bayern abbiamo fatto ottavo di finale, come può essere con un quarto? Io sono avanti rispetto a voi. Ti dico i quarti di finale. Allora, noi ti dico la finale. Eh? Sì, ma arriviamoci con calma. Real Madrid, ma no, tanto abbiamo Napoli, tutto il giorno l'Immacolata, sforiamo tutto, va bene, dai. Andiamo. Juve, vai. Monaco, Napoli, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal e Barcellona, Manchester City. Questi sono i quarti di finale. Vuoi delle semifinali? Le semifinali, le semifinali. Le semifinali. Siamo un po' anche i risultati? Ragazzi, siamo un po' banalotti. Cosa banalotti? No, perché io voglio vedere Barcellona-Bayern agli ottavi. E ti ho fatto vedere Barcellona-Bayern, ma siamo già ai quarti. Sei distratto. Mi confondo in mezzo a tutti questi nomi e a tutte queste previsioni che domani le palline... Anche. No, ma ce l'hanno capito. Va bene, dai, andiamo avanti. Quarti di finale. Il Real Madrid elimina l'Arsenal. Aspetta che mo scrivo. Nei quarti di finale. Elimina l'Arsenal e gioca contro la vincente di Barcellona Manchester City, quindi gioca contro Barcellona. No, scusami, gioca contro la vincente di Napoli Atletico Madrid, che è il Napoli, che il Napoli supera l'Atletico Madrid. Quindi la semifinale è il Real Madrid Napoli. Dall'altra parte la Juve, che supera il Monaco, gioca contro la vincente di Barcellona Manchester City e quindi col Barcellona. Quindi le semifinali sono Juve Barcellona e Real Madrid Napoli. La finale chiaramente è Juve-Napoli a casa. Juve-Napoli. Juve-Napoli va avanti, pareggiano 0-0, vanno supplementari 1-1, vanno ai calci di rigore e 19-19 a oltranza. De Luca, vieni qui. De Luca, vieni qui. Portami il Pandoro con la crema al mascarpone, per favore. È l'Immacolata e oggi mi hanno tirato scemo tutti quanti. No, ma per hanno lui. Deciso di assegnare la Champions per due. Sì. Mezza alla Juve e mezza al Napoli. Metà. La grande pace. La grande pace. Come quella che c'è tra Juventus, Roma e è importante che non si giochi allo stadium, tanto lì perdiamo sempre. No, l'unico che si può arrabbiare, non dico altro, sai. Tanto si gioca a Cardiff. Dice, avete visto? Chi è? Vabbè. Ma tutto come uno abbiamo segnato allora, tutto comunque. Allora, abbiamo segnato tutto e tutto sarà sbagliato. Parlatemi Pierluigi Pardo e Antonio Giordano del biscottone del Real Madrid ieri sera, perché Filippo Maria Ricci prima ha fatto il democristiano Ancien Regime, no, dicendo che il più bel Real della stagione, in realtà nella testa del Real c'era il 2-2. Dai, non pigliamoci per il culo. No, non si dice a quest'ora. Non si dice. Non prendiamoci in per giro. Per il mulo. Non prendeteci in giro. No, io sinceramente ho visto le immagini, non ho visto la partita, mi fido. No, io ho visto la partita. Com'è? Biscotto? Devo dire che onestamente se è un biscotto l'hanno fatto veramente bene, altrimenti auguro al Napoli di incontrare il Real. Ragazzi, Antonio, stiamo parlando di professionisti, anche del biscotto, cioè quando mai lo sgami. Allora mi tiro dinanzi ai biscotti, ragazzi. Mi tiro dinanzi al biscotto, sono stati veramente bravi, non ci arrivo io, perché per me a un certo punto hanno preso una bamba, non capivano più nulla, però... Devo dire che a questo punto sposo la tua tesi in pieno, hanno fatto il calcolo, andiamo di là ragazzi io ad anni quasi 50 qualche biscotto l'ho visto ieri sera, ne ho sentito profumo, questa è una cattiveria gratuita, però ma dire, il Dortmund ad anni quasi Dortmund. 50 mi fa male, io sono oltre. Il Dortmund è arrivato primo, ma non è messo molto male, perché comunque non può beccare il Real, non può beccare il Bayern, non può beccare il Bayern Leverkusen, che tutto sommato poteva anche starci bene. Il Dortmund pesca una fra City, Paris Saint-Germain, Siviglia, Porto e Benfica. Quindi è vero che insomma non è messa malissimo, deve evitare il City e deve evitare il Paris Saint-Germain, no? Sì. Se fosse arrivato secondo nel girone, comunque il Dortmund poteva pescare avversari come Barcellona. Cioè, è quella che gli inglesi dicono win-win. Cioè, a Real Madrid è straconvenuto arrivare secondo. Però siamo tutti concordi sul fatto che il Siviglia ha più culo che anima, anche se l'Immacolata non bisognerebbe dirlo. No, ma resta, sì, il Siviglia sì, no, però voglio dirti che sulla situazione di Real Madrid-Dortmund, premesso che mi fido di Ricci, che era lì presente sul posto, se Real Madrid ha avuto l'occasione per il 3-1 e il Dortmund è riuscito a salvarsi e poi è arrivato il 2-2, è un dato di fatto, però è una situazione veramente win-win, nel senso che Real Madrid conviene, il punto sono i derby. Quest'anno si è creata una situazione molto particolare per cui le prime migliori o comunque due prime molto pesanti sono spagnole e quindi al Real Madrid tutto sommato arrivare secondo non dà fastidio, e il Dortmund che arriva primo, però arriva primo in un girone dove comunque il Real Madrid non lo pesca e il Bayern non lo pesca, quindi buona parte delle seconde difficili comunque non le trova, e a questo punto dovrà salvarsi da Paris Saint-Germain e City, però è una situazione formato migliore che se fosse arrivato secondo, dove c'aveva sono i panni del radioascoltatore, eh? Io sono i panni del radioascoltatore dall'altra parte che sente Pardo e dice la Champions è un algoritmo. No, lo capisco, lo no. Devi dire il calcio è liquido. Il calcio è liquido, devi dire questo. Che questa roba è complicata e forse ci vorrebbe Padoan o Zichichi qua, perché è carta e penna. Però realmente è successa una cosa molto particolare, cioè è successo che Real e Dortmund si sono trovati negli ultimi minuti della partita di ieri in una situazione, premesso che io credo nella buona fede, soprattutto credo in Filippo Maria Vici che era sul posto e in Antonio Giordano che mi dice che se l'hanno fatta molto bene. Io nella buona fede non ci credo neanche un po', perché ieri sera ha fatto biscotto. Sinceramente ieri ci si sia trovati nel mercoledì dell'ultima giornata in una situazione molto particolare, perché al Real è stato venuto arrivare secondo, ma che poi, e al Dortmund non è visto. Ma che poi, ragazzi, vi faccio il domandone epocale, ma nello sport del 2016, con tutti gli interessi che girano, è così peccaminoso fare dei calcoli? No, ma non così, no. Così no. Cioè, ognuno tira i propri interessi. Ragazzi, noi vediamo dopo l'europeo. Cioè, io se ho un vantaggio nell'arrivare secondo, io... lo sfrutto. Certo, lo sfrutto. Me lo sono guadagnato sportivamente? E sportivamente, okay, me lo curo. E sportivamente me lo curo. Quindi certo. io sono, in questo senso, sono tutt'altro che democristiano. Cioè, nel senso che guardo al girone, guardo alle possibili avversarie e se posso procurarmi un vantaggio dalla mia posizione, me la procuro in funzione del risultato finale. Per arrivare a Cardiff faccio di tutto. Ah, esatto. Prendo la strada migliore, lascio la tangenziale occupata agli altri. Sì, sì. E non dimentichiamoci che veniamo da un europeo assurdo, con una metà del tabellone che era nettamente più facile dell'altra. Quindi, insomma, delle competizioni sportive che non sono legate, che non hanno il meccanismo italiana andata e ritorno, queste situazioni possono succedere. Devo dire, se ripenso al mondiale dell'82, ti abbrividisco. Andiamo un po' indietro adesso, Antò. Sono più di 50 anni, ragazzi. Io ci sto arrivando, Pardo è ancora molto lontano, è un bambino, è il bimbo di tutti noi. È il Niño de Oro, dai. Niño de Oro, dimmi una cosa, con i denari della Champions, il Napoli chi va a prendere? In ordine, Pavoletti, perché è quello che da più tempo è stato, come dire, radiografato. Sì, radiografato la parola giusta, perché di radiografie ne ha fatte un miliardo e quasi sempre rotto. Sei troppo intelligente, tu, l'ho detto mica per caso. Però quello che piace di più è Kalinic. Ma se la Fiorentina decide di sedersi, altrimenti dipende dagli altri. Bravo maestro, Kalinic a me fa impazzire. Lo so, devo dire che vedo giocare il Napoli e l'immagino con Kalinic dentro, penso a una squadra che è compiuta. Bravo maestro, bravo. Ho studiato a scuola Pardo io. Bravo. Pardo? Ma io mi fido sulle cose napoletane, mi fido di Antonio, sinceramente. Insomma, io penso che Napoli abbia questo paradosso che che ha fatto tanto mercato quest'anno, ha preso tanti soldi da Higuain, ha irrobustito la rosa in maniera forse addirittura esagerata, tanto è vero che Rogge abbiamo dovuto aspettare. Sì, abbiamo dovuto aspettare il esatto, sì, sì, il decreto legge. Sì, sì, sì, sì, esatto. No, il referendum tutto quasi questo discorso, diciamo che aspettare Napoli e Sixtas, quindi terza giornata di Champions League prima di giocare, di scendere in campo, poi non è più uscito. Però insomma, questa è la realtà. Ha robustito moltissimo la rosa in difesa a centrocampo, ma davanti c'è questo paradosso, che l'assenza di Milik non aveva un sostituto, e ovviamente per la legge di Marti si è fatto male Milik, quindi adesso il Napoli sicuramente farà delle cose lì davanti. Allora, io dico poi la coppia Kalinic-Zaza, vi convince o no? A me? A tutte e due? No. Basta Kalinic. Prendere Pavoletti, dai. Però Pavoletti gioca a sprazzi. Cioè, io Pavoletti, onestamente, pur essendo un eccellente giocatore, non ti sposta. No, non ti sposti, non investire del denaro su un giocatore che è onestamente fragile, perché con tutto il bene che gli possiamo volere, insomma, è più in infermeria che in campo. Sì, però se metti Kalinic ci sposti il valore della squadra. Se metti Zaza, non lo so, anche perché voglio dire, in certe situazioni l'empatia anche a livello ambientale incide. Non mi sembra che Zaza goda di tutta questa considerazione popolare. Poi magari arriva, ti fa la tripletta e diventa l'idolo di Napoli, perché capirai. Però se devo fare una classifica metto Kalinic davanti a tutti, per simpatia anche che si coglie in giro, ma anche per capacità di essere nella squadra. Sì, sì. Io dico, spero di non dire una sciocchezza, ma Napoli gioca al calcio, il secondo tempo di Lisbona ne è testimonianza. In Europa ce ne sono poche che giocano questo calcio. Sono d'accordo. Il Napoli è squadra, lo dicevo in momenti un po' più complicati, il Napoli è squadra più europea che italiana, nel senso più squadra da grande partita che squadra da regolarità. Zozze, sì. No? Le partite zozze non fanno per loro. Esatto, e quindi può essere adatta per la Champions League, un po' come il Milan di Ancelotti, no? Nella parte finale riuscì a vincere quella Champions ad Atene, che poi in campionato magari invece faticava. Ci sono, ma è proprio nella storia dello sport. Genta è un appassionato di basket, si ricorderà il Banco Roma che vinse la Coppa dei Campioni, che in campionato era a metà classifica. Larry Wright e Knarski. Esatto, ma sono due storie proprio completamente diverse, sono due sport completamente diversi, lo ripetiamo spesso. La regolarità di un campionato è invece la competizione breve, con grandi partite, con squadre. Sentite, che ragazzi, Adesso io vi saluto, perché devo parlare di una bionda. Allora hai stravinto però. Io stravinco. Adesso voglio parlare di una bionda divina. Quindi saluto Alessandro, Antonio Giordano, Pierluigi Pardo, e voglio parlare. Chi è sposato, Giordano? Una mora o una bionda? Una mora. Sì, vedi che alla fine le more. Beato, ma io mi piacciono le more, dai. Ma si sa da sempre, perlomeno così mi ricordo. Senti, facciamo un programma su questo argomento. Chiama anche Cruciani, facciamo un programma su questo argomento. No, dirò a mia moglie di non sintonizzarsi sulla radio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Devo dire che è stato uno dei miei anni migliori lo scorso, e quindi insomma aver mancato proprio per così pochissimo quella gara non è delusione né altro, è solo rabbia, e convivere con la rabbia fa bene a lungo tempo, però nell'immediato insomma è un po' difficile. Questa è la bionda, si chiama Federica Pellegrini, ha una fenice tatuata addosso ed è riuscita a risorgere dalle ceneri di Rio in un'altra latitudine, quella canadese. Alessandro Pasini, Corriere della Sera, ciao. Ciao, ciao Carlo, buongiorno a tutte, buongiorno. Beh, a me sì. Sorprende il fatto che una atleta di comunque 28 anni, che non sono pochi, reduce da una delusione, reduce da dall'aver portato una bandiera che era pesante come i cinque cerchi, riesca a trovare di nuovo le energie per essere la migliore. Sì, ci sorprende perché lei vive su un'altra dimensione. Lei, come i grandi atleti, come i fuoriclasse, no? Che già insomma in questo appellativo chiariscono la loro natura, cioè stanno fuori categoria, fuori dall'ordinario. Ecco, noi forse ragioniamo in un certo modo, pensiamo che le delusioni, no, possano essere definitive. Il grande atleta da lì riparte. Lei poi in particolare, insomma, è sempre stata così. E quindi non c'erano dubbi, una volta che ha deciso di restare in vasca, non c'erano dubbi che avrebbe fatto bene. Insomma, almeno io non li avevo, ma credo nessuno. Insomma, no, io no, sì. Non essendo una ragazza, no, io nel sì, senso io, che non io è una sì. ragazza che sta a metà, cioè o smette o smetteva. No, ma io mi domando dove ha trovato la forza di cioè questo che infatti, è questo rimane, il grande merito. Rimangono i misteri, no? I misteri dei campioni, delle persone fuori dall'ordinario, degli atleti fuori dall'ordinario, perché qui parliamo di un atleta fuori da ogni categoria italiana, mondiale, voglio dire, insomma, no? Parliamo che va oltre il nuoto. Italiana di ogni epoca, secondo me. Sono d'accordo, ma è bellissima questa frase che hai fatto sentire, convivere con la rabbia. Federica fa parte di quella categoria che ha bisogno addirittura della rabbia, insomma, di avere qualcosa contro cui combattere. Nel tempo furono magari altri nemici, adesso è se stessa, ma anche in una maniera, voglio dire, limpida, non cattiva. L'idea di doversi migliorare, di dover reagire a un proprio errore, perché a Rio in fondo ha sbagliato lei, la preparazione, la concentrazione, chi lo sa. E quello disse, che non voglio, non voglio smettere piangendo, no? Disse, ma io no, ricordo, fu grandissima questa frase. Non voglio pensare che ho smesso piangendo, ed è tornata. E del resto, guarda, pensandoci un attimo dal punto di vista, quello non fu un fallimento enorme sul piano tecnico, cioè lei andava forte, insomma, poi ha sbagliato la gara, ha sbagliato la tattica, eccetera, però lei andava forte, è andata forte tutto l'anno, e quindi forse secondo me anche questo, volendo poi uscire dalla poesia entrare nella tecnica, cioè lei comunque in forma va. Hai capito? Certo, quindi certo, tempo che ha fatto è il suo miglior tempo assoluto in tessuto, quindi è una che a 28 anni va come non è mai andata, un po' come qui l'abbiamo detto tante volte, continuiamo a dirlo, no? Un po' come Valentino, convivere, dai, diciamolo, come Valentino Rossi, amico mio, sono quelli che amico 38, mio, esatto, amico mio, convivere con la rabbia è il sigillo dei grandi, posso dirlo. D'accordo. Quindi vediamo. Chiudiamo ora così, vediamo la trasmissione. Tokyo, Convivere col sigillo della rabbia è il tratto comune dei grandi. Grazie Alessandro Pasini, Giorgio Grazie De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzone in redazione. Ci sentiamo domani. Ciao.